Benvenuti alla terza puntata, terza puntata di Tre Menti Sopra il Clero da Frankie Energy e Pulvilla. Questa sera alle Tre Menti pensavo diventa... da Agrigento, in diretta da Agrigento, pensavo stavi dicendo da dove stavamo trasmettendo. Non ero non da, comunque non da, da Agrigento, a base da Vetralla forse. Da Vetralla nel Viterbese. O da Durazzo. Battute bruttissime e tristi. Grazie, era per il collegamento. Vabbè, di quello che parleremo tra pochissimo su Tre Menti Sopra il Clero, che questa sera sono due menti sopra il clero. Sono due menti sopra il clero, quindi probabilmente incominceremo a parlare al contrario, oppure non lo so, incominceremo a darci. No, questa sera sarà appunto la giocoleria che voi non vedrete perché è una radio. Sì. Ma tolto questo, siamo appunto due perché salutiamo la terza mente, che è quella migliore e più funzionale. E che purtroppo non c'è, quindi ci ha lasciato soli. Sappiamo proprio che cosa cazzo dire oggi. Sì, infatti stasera sarà un po' una puntata atipica, per quanto possa essere atipica la terza puntata del programma. Però cercheremo di andare un po' più a braccio, perché non ci è andato di preparare molto gli argomenti e non ci abbiamo niente da preparare. Ma soprattutto perché questa settimana è stata la settimana in cui abbiamo passato tutte le tre completamente ubriachi e la scaletta non potevamo scrivere. Non è la prima settimana che succede questo, però in generale non è stata una settimana ricca di avvenimenti. Anche se poi oggi, che è l'ultimo oggi giorno, recuperato tutto insieme. Esatto, ho recuperato tutto insieme con la schicchera Andreotti, la i nuovi scandali della Lega, fantastici. Vabbè, parleremo un po' di tutto quello che è successo questa settimana. Comunque, davvero, Andreotti è eterno. Andreotti è problematico. Io oggi mi chiedevo se per caso l'eventuale morte di Andreotti potesse finire sotto la voce i primi tagli di Bondi. Sì, probabilmente sì, deve essere il primo taglio, infatti non è riuscito a farlo. Continueranno a pagare, però di fatto è un taglio alla spesa pubblica se muore, perché sì c'ha una spesa pubblica risalente agli anni di Cristo. Sì, vitalizio, beh, considera che ha fatto, credo, il suo vitalizio l'abbia firmato Garibaldi. il primo assegno italiano. Ma infatti oggi mi chiedevo, siccome la segretaria che ha fatto le dichiarazioni dicendo che sta bene e fa anche le sue battute, dici che gli è batta la pensione? No, dico, ma come fa? Cioè, una badante, non è una segretaria. Segretaria di che? Nel senso, che fa? Gli scrive le cose? Gli legge la posta, che fa? Che segretaria è? Nel senso, credo lo tenga in vita in realtà, artificialmente. Non così, a quello il suo lavoro. In realtà la sua segretaria è una macchina per respiratrice. Comunque, in tutto questo, la cosa bella è, mi ha ricordato oggi quello che è successo. Non mi ricordo a che programma era ospite, di che programma fosse ospite Andreotti, che a un certo punto si impallò e rimase lì con non mi ricordo quale conduttrice che gli faceva presidente. Lui si era impallato, si era addormentato. Sì, praticamente, cioè, presidente, quando ti si impalla il computer uguale. Ah, come nonno. Esatto, come nonno. La stessa cosa. Nonno pure ogni tanto si impalla. Ma che qua hanno dovuto riavviare dal dosso, una cosa incredibile. Ha dovuto fare contro l'alcance, perché c'è le versioni vecchie, ancora sì, c'è dal dosso. Contro l'alcance, poi riavviare il sistema, un po' di... Vabbè, tanto mettiamo una canzone. Capiamo di che cosa parleremo e diamo quest'oggi. Un bacione al nostro amico terza e migliore mente, probabilmente, che è tutto dire, tra l'altro. Esatto. E lo salutiamo se ci sta sentendo, e se non ci stai sentendo, vaffanculo. Sì. You know. Aspetta, e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente? Presidente? E hanno mandato la pubblicità. E hanno mandato la pubblicità con Andreotti impallato. Ringraziamo Levaria che ci ha mandato il contributo di Buona Domenica, in cui Andreotti appunto si... Ma chi era la conduttrice? Paola Perego, e credo. E si è cagata sotto tantissimo. E ti credo. Beh, comunque c'era manetta, nel senso, comunque... Eh sì, la sala spesso tutto, gente, veramente, mio nonno non muore per vedere. Ma poi prima Andreotti, cioè c'è in concorrenza. Mi sono sempre chiesto, un senatore a vita, quando muore diventa senatore a morte oppure... Vabbè, questa... Guarda, se lo avessi appena messo una canzone ne manderei un'altra subito. Per picchiarlo. Allora, tolto questo, salutiamo intanto tutti quelli che sono in chat. Tutti quelli che mi conoscono, io saluto. Sì, sì, grazie Sonia. E... salutiamo tutti quelli che sono in chat, tranne Sandrone che è sempre un accollo incredibile in chat, si comporta veramente da persona che crea problemi. Salutiamo il forte Prenestino che ci ricorda un dibattito che c'è stasera sulla Diaz, ma sentite noi, ciao. Infatti questo Dor... è curioso, comunque riusciamo a essere sempre in concorrenza, sì, sì, con le cose. Io credo che tra un po' saremo in concorrenza anche, non so, con l'annuncio della terza guerra mondiale. No, no, ma tra l'altro mia madre stava pensando di fare una trasmissione di giovedì sera. Giovedì 10. Sulla... quindi manco lei ci ascolta. Sulla crisi in Medio Oriente, tra l'altro. E niente, quindi appunto abbiamo visto che questa settimana è stata meno ricca di eventi rispetto a... Vedi, abbiamo ricordato a Doriana che c'è il dibattito e adesso ovviamente non ci ascolta più. Ciao Doriana. Vabbè, Doria, però capisci, veramente, cioè, noi possiamo contare su due ascoltatori, te e la Ghiattona. Mo se tu sì. te vai a sentire, c'è il podcast, te lo dico io, c'è il podcast del dibattito, ce lo sentiamo insieme. Però attenzione, c'è il podcast anche della nostra trasmissione. Non gli dico così, che sennò poi... Forse, perché l'ultima volta non c'è stato. Però in generale, appunto... che dire, si è bloccato Andreotti, quindi perché non dovremmo bloccarci noi? Per esempio, e non abbiamo Paola Perego, che è molto a riprenderci. Non abbiamo Paola Perego che ci chiama. Gigi in giro, tra l'altro, che... il buon Gigi che ci aiuta nei problemi tecnici. E quindi niente, questa sera, però in tutto questo non è morto, perché è ancora vivo e sta benissimo e fa anche io battutone. Però scusa, tu in diretta parla, voglio cercare le io in diretta parlo. Andreotti, sì sì. In che senso? Quanti anni ha? Sì. 98. No, come mio nonno, no, non ci credo, mio nonno pure. Vabbè, adesso. 99 anche a meno. Mio nonno, Anche meno forse, sai, forse è del 1919. Fagli dei conti. Mandiamo una canzone. Per fare dei conti. Vabbè, in tutto... Ma veramente senza la cosa. No. Era... Oh, 98, ne mancano 6 anni, no. Siamo nel 2012, mancano 6 anni per fattondo. 100. Quindi c'ha 4, 94. 94, è più vecchio mio nonno. Non vedi. Tu nonno se starà a grattare i coglioni all'acremente proprio stasera, perché gli sta a lanciare proprio. Ma mio nonno ha deciso che finché non muore Andreotti, col cazzo che muore prima. Ma perché lui non lo uccide? Cioè, nel senso, beh, io comunque sarebbe la guerra veramente a delinquere di tuo nonno, quindi. Passiamo ad altro argomento, ricordandovi innanzitutto i contatti. Perché ci potete ascoltare su transizionifase.org e ovviamente potete accendere lo streaming e anche entrare in chat con noi, se, nonostante tutte le difficoltà ci potete riuscire, basta semplicemente dire ok a Java ed entrare con Java ed entrare in contatto con noi. Fate avere amicizia con Java. Con Java e con noi, rendendo questa trasmissione un po' più interattiva, soprattutto stasera che appunto non manca uno di noi e sentiamo... Cazzo, c'ho le polpette nel forno! Cazzo, c'ha le polpette nel forno, questo. Vi rendete conto di come cazzo... Porta pure il pezzo di torta, ciccio! Allora, dicevamo che Andreotti sta così. Noi non stiamo meglio, perché questo, c'ha le polpette nel forno e si sentiva puzzato e bruciato. E praticamente questa settimana sarà un po' atipica, perché abbiamo solitamente le altre trasmissioni le abbiamo... programmate per cercare di dare una scaletta che rispecchiasse tutto quello che era successo in settimana. Questa settimana non è successo nulla di particolare, a parte il 1° maggio, sia a Torino sia il concertone. Parleremo anche del concertone, che è stato un po' sotto certi aspetti ridicolo. Te ti è piaciuto il concertone? E chi l'ha visto? Appunto, non l'hai visto, io manco. E... vabbè, no, ma ho abbassato la sedia da sotto al culo, che non è una bella cosa. Non tempo alla legge la chat, te l'ho detto mille volte. Ma hai aperto la chat sotto, leggo. E... no, non t'ho aperto la chat, ho letto la notizia perché c'è chi vuole diventare un supereroe. Ah, vedi, non avevo visto questo qua, attenzione. Questo davvero esiste? No, ha fatto una cosa eclatante. Questo... in Francia, diciamolo, in Francia. Cioè, who, when, once, once, when, dillo. In Francia. In Francia, chi? Sì. Chi? Un militante di Greenpeace. Un militante di Greenpeace. Si è calato col parapendio nel recinto della centrale nucleare di... non so come si legga. Comunque una centrale nucleare francese. Vabbè, insomma, è planato sopra la centrale nucleare francese. Io spero per cercare di acquisire dei poteri da supereroe. Sì, io credo che volessi diventare fatto. L'incredibile Hulk o l'uomo torcia, forse. O l'uomo planante, magari vuole... l'uomo falena. L'uovo falena. Allora, proviamo a fare un po' una cosa interattiva. Non ci riuscirà mai perché siete quattro ascoltatori e siete anche pigri, però... E vi state sentendo, anche l'altra trasmissione. Quindi. E state parlando col Forte Prenestino. Ciao, Forte Prenestino. Grazie di farci concorrenza. Diteci secondo voi che cazzo di supereroe voleva diventare quest'uomo che si è praticamente che ha volato sopra una centrale nucleare e rischiando appunto notevoli come si chiamano? E che adesso è in modifiche carcere. Genetiche? È in carcere? Beh, ma fuggirà sicuramente non appena avrà acquisito. Comunque, giusto per spiegare questo suo gesto è un'azione dimostrativa per mettere entrambi i candidati all'Eliseo, che sono Hollande, Sarkozy, di fronte al fatto della vulnerabilità degli impianti atomici. Quindi, insomma, noi siamo dei cazzeggioni e ci cazzeggiamo sopra, però, insomma, ci ha avuto anche un senso la sua azione. Non... Sì. Tra l'altro, tra un po' diventerà un supereroe, quindi non mi metterei lì a pensare su quello che fa o non fa, perché viene qui e ci spacca. Detto questo, cose importanti, ti sono bruciate le polpette? No, sono venute buone. Sì. Ah, devi sapere che lui comunque è un gran cuoco. Non vi diciamo chi è, se lo conoscete lo sapete, se non lo conoscete non lo sapete. Non lo sapete. Però cucina vabbè. Scusa, era la sagra dell'obietà. E ha fatto delle polpette per lui, ma soprattutto ha fatto una torta buonissima. Sì, però non l'ho fatta io, c'è da dire che l'ha fatta la mia... consorte, la mia compagna. Ah, e all'inizio ho fatto una torta buonissima. No, vabbè, l'ho fatta nel senso che ha guardato mentre volevo stare a spiegare. Ah, scusate, cucina de merda lo stronzo e si prende sì. Però meriti che non sono i suoi. Assolutamente. Adesso sì. Mettiamo un'altra canzone salutando tutti quanti e ricordando di nuovo, perché prima non mi hai fatto venire con la tua storia delle polpette. Scusa. Che potete entrare in chat, ci potete anche raggiungere su Facebook. Ci potete anche citofonare, se volete. Anche citofonare, sì. Noi non vi apriamo. No, però potete citofonare e possiamo parlare dal citofono. No, perché non funziona. Già la pass bene, no, perché non guarda, funziona. Ci siamo innovativissimi comunque. Sì, lo so, sempre più avanti. E Revolution Rock, The Clash. Vediamoli però ogni tanto questi cazzo di contatti. Sì, dopo. Mash up the nation. This is- Pronta? Prontissima. Oh, eccoci, bellissimo pezzo di chi era? Come chi era? Nathan English, Revolution Rock. Ah, vedi, io ho un'ignoranza musicale su certi aspetti, ho proprio saltato. Magari lo mettiamo un po' più basso. Mettiamo più basso il tappeto. No, perché è comoda sta postazione che ci siamo creati. Sì, no, nel senso siamo più scomodi stasera che siamo in due che solamente quando siamo in tre. Questa cosa va capita. Però a parte questo, stavo sentendo in giro che c'è Sabrina Ferilli a, come cazzo sia, Servizio Pubblico di Santoro. Poi mi chiama papà. Ed è fantastico perché probabilmente Santoro lo sta facendo per agevolarci, perché Sabrina Ferilli a Servizio Pubblico non si può sentire, anche perché Sabrina Ferilli, se non sbaglio, non più di 3 settimane fa ha dichiarato di volersene andare perché i ricchi in questo paese sono troppo tassati, e quindi perché devono essere tassati loro? È più facile prendere i soldi da chi ha meno perché sono di più. Un ragionamento contorto e molto di sinistra, però, da parte della Sabrina nazionale, no? E che, scusa, stavo a parlare con te. No, bella, facciamoci i cazzi nostri in diretta. Poi vai a spiegare che stai in radio. Vabbè, non gli puoi spiegare, stavo cagando, per esempio. Si può anche rispondere in altri modi. Va bene, comunque, questa è una radio verità con gente che risponde al telefono. Reality radio. Condurre. No, dicevo di Sabrina Ferilli che qualche settimana fa ha dichiarato che se ne voleva andare dall'Italia perché è troppo tassata. Troppo vessata. In quanto ricca, e dovrebbero tassare di più i poveri, o meglio, i meno abbienti perché sono di più. Quindi, ma io credo che questo paese ci abbia un grande problema, soprattutto l'altri. Che parlano veramente tutti, pure noi. È quello forse il problema. Ma secondo me il problema è proprio che parliamo noi. Però noi abbiamo un mezzo, uno strumento potente, ma effettivamente poi ci ascoltano le persone che sanno quelli che ci conoscono, quelli che ci e quindi sanno in qualche modo decifrare i nostri messaggi. Mo a Sabrina Ferilli, veramente, ma perché uno gli deve dar retta? Perché? Ma la cosa più preoccupante è che per anni gente di questo calibro è stata considerata come un... Vabbè, quando fa l'opinionista al Babarietti. Sì, cioè però sono tutti, sì, però il problema è che sono tutte figure. Perché Fiorello che... parla del Beppe Grillo? Cioè, nel senso, qua siamo nel, veramente nel paese di... sì, però la cosa che, cioè, la mia mente è finita, qua ci dovrebbe essere già la mente. Sì, infatti ne manca uno e ci mancano proprio i pezzi. Se voi sentite il Bianco a un certo punto è perché doveva parlare lui e non esatto, c'è. Esatto. E no, la cosa più che altro preoccupante è che dalla Ferilli alla Parietti, cioè sono tutte figure che vengono assimilate alla sinistra per qualche strano motivo, che però di sinistra hanno ben poco, ma neanche dei centro-sinistra, cioè, ma lo dicono loro, manco aria PD. Ti ricordi ai tempi di Maurizio Costanzo Show, quando ancora c'era lui? Non so, i premi partiva di orario. A voglia, sì, era proprio... era così, era. Sì. Ma soprattutto era... cioè, stiamo valutando appunto queste problematiche, ma che cosa, cioè, che cosa, ma che cosa stiamo dicendo? Parole a caso. Ma di che cosa stiamo parlando? Dimmi tu, guarda. Chi siamo? Guarda, apriamo una notizia a caso. Adesso diciamo una notizia a caso. Greenpeace. Un'altra volta, cambiamo, basta. Parlare veramente delle notizie. La cosa di cui vale la pena parlare, altro che Diaz. Però volevo dire una cosa. Io posso permettermi di svarionare così per un semplice principio. Io non sono laureato. Invece c'è qualcuno che lo è laureato. Anche da poco. Anche da poco. Dovremmo anche far dire che è un grande. Ci ha messo anche. Però Luca, scusa, non si ride in radio. Hai ragione. Ci piange probabilmente. Allora, no, noi facciamo le congratulazioni a questa persona che ha da poco preso la laurea. Complimentoni. L'ha presa con tutti i 10 e lode, non so come. Sì, la laurea. Vabbè, perché sono votazioni diverse. Sì, sono votazioni diverse. L'ha presa in Albania. Di preciso in una università che si chiama Università Crystal, come lo champagne. Che ragazzi, veramente pare che sta mostrata. Non so se avete visto le foto su Repubblica, ma pare la casa dei Barbie. Sì, una sede di quelle aziende immobiliari che te sembra vengono. Una casa di Barbie oppure il classico edificio di una confraternita americana. Sai, quelle là. Le confraterne magari colorate un po' a cazzo, però le classiche confraterne Alfa Omega che fanno i riti di iniziazione. Comunque il Trota si è laureato. Si è laureato in un anno alla triennale. E ha fatto il recupero, ha recuperato. Sì, 3 in 1. E praticamente appunto si sollevava la questione di quanto sia intelligente questo che ha fatto forse è perché ha fatto 3 volte la maturità che ha acquisito una capacità, un metodo di studio importante. Abbiamo anche la foto del diploma. Se no non si spiega, anche perché si è laureato. Facciamo vedere la foto del diploma in radio, dai. Sì, la vedete? Bella? Firmata da Maxim Biznesi, che è chiaramente un padano che è residente in Albania. E niente, tutto questo per dire che appunto è riuscito a laurearsi il Trota, che tra l'altro, cioè, manco in una cosetta così, cioè in gestione economica, cioè, insomma, economia gestionale, voglio economia dire. Economia gestionale. Sì, gestione economica, anzi, posso sentire. Economia gestionale, con il massimo dei voti, perché ha preso un sacco di 10. Sì, ha preso appunto, il massimo dei voti. Ha preso il massimo dei voti in un anno, ha fatto quello che bisognava fare in 3 anni, quindi complimenti a lui. Stando nel frattempo in un consiglio regionale. Regionale, prende, cioè, praticamente uno studente lavoratore, quindi è uno studente lavoratore. Quindi è un modello per tutti noi il Trota, tra l'altro anche pendolare, perché... certo, da per andare in Albania. Dall'Italia a Durazzo, insomma, ci vuole. E non solo lui, però, attenzione, perché comunque la Lega evidentemente hanno fatto un gruppo di studio, perché anche il compagno di Rosimauro, che si è laureato sempre credo in economia. E pare anche Rosimauro, però ultimamente vabbè, hanno preso l'offerta, cose, no? Hanno preso l'offerta, pacchetto famiglia. Esattamente, sì, credo che ci sia proprio nell'iscrizione quanti vogliono frequentare i corsi. E quindi mezza Padania, di fatto, mezza Lega Nord si è laureata in Albania. Chissà come l'hanno pagati poi questi corsi. Sempre con i soldi del movimento. Vabbè, mo non si sa. Non è stato chiarito. Si sa, però ti posso dire una cosa. Cioè, se è per una cosa importante come lo studio, perché la cultura che entra dentro casa è una cosa... cioè, nel senso... La salute, la cultura... Cioè, io, sai cosa, più che altro so... per certo, cioè sono felice che questi soldi pubblici siano stati spesi così, perché so che da lì mi ritornerà un grande statista del futuro. Quindi io sono contento, cioè un investimento per l'Italia. Anche infatti, se il dispiacere è che in questo momento il Trota sogna un futuro da agricoltore o al massimo da muratore. Massimo da muratore. Sì, beh, però nel senso, anzi, e c'è veramente gente che inizia a piangere. Fa bene perché si sporca le mani. Sai quando Bossi si è dimesso, no? Che la gente ha chiamato Radio Padania in lacrime. Ecco. Ecco, la stessa cosa è successa, sì, quando il Trota ha dichiarato, esatto, di voler i campi fare... di grano si sono messi a piangere. No, vi prego, no, no, vi prego, no. Anche i foratini stanno lì e dicono: no, non voglio essere toccato da questo imbecille. Però in tutto questo, appunto, si è formato un nazionalista. Oggi ho letto un tweet anche abbastanza che mi ha fatto pensare. Effettivamente, che lui è stato bello vedere che un rampollo, comunque, di una famiglia, no, di una famiglia importante, ma comunque di un importante esponente politico, decide invece che fare come tanti altri, come abbiamo visto per esempio la Borromeo, di fare master a Harvard, a Yale o comunque in grandi università, invece ha l'umiltà di andarsi a laureare in Albania e non fare il superiore per poi tornare. Mi sono laureato. Lui non aveva neanche detto che si era laureato, per quanto è lui modesto. Voleva farla passare un po'. Voleva fare sotto, sì, cioè nel senso, non è che ti è arrivato dicendo di guardami, io mi sono, tu che parli, io mi sono laureato in un anno. Non è che l'ha detto vantando, no, non l'ha detto come proprio. Come ha fatto quel sottosegretario Martone, sì, esatto, che disse che chi non si laureava entro i 28 anni era uno sfigato. E tu sei uno stronzo, comunque, a prescindere. Cioè, comunque stiamo cazzeggiando sul Trota, alla fine mi sto convincendo che è un bravo ragazzo. Ma secondo me lui è inconsapevole. Cioè, tutti dicono che è inconsapevole Bossi senior, ma secondo me quello inconsapevole davvero è Bossi junior. Sì, cioè, secondo me non si rende ma conto. Ma secondo me è una famiglia di inconsapevoli. Se gli rifanno casa pure la moglie. È vero, se gli hanno rifatto casa senza soccorso in niente, c'è ragione. Comunque, giusto, direi che adesso ci prendiamo un po' di ossigeno. Aspetta, con gli After Hour. Aspetta, dai, aspetta. Era un lancio veramente bello. No, questo era molto bello. Bello, era proprio bello. Sì, però magari metti. Leva il microfono, Bezels. Sì, ossigeno, After Hour. We'll be right back. E ritorniamo in voce dopo Ossigeno degli After Hour, che hanno suonato. No, al concerto. Come no? Non hanno suonato. No, sono andati. Cioè, loro volevano suonare, però non hanno suonato. E c'è stata una polemica. Cioè, polemica. Oggi hanno raccontato il perché ieri non, scusa, l'altro ieri era il primo maggio, non sì. Si sono esibiti come da copione, perché praticamente è successo che li hanno rinviati più volte di durante la scaletta, li hanno spostati più volte. Emanuele Agnelli è famoso per avere un buon carattere. Sì, quindi. Sì, sì, è una persona di un paziente unico. Li hanno spostati più volte. E fino a che in ultima battuta e loro hanno detto, cantato col culo, praticamente questo è successo. Fino a che in ultima battuta non gli hanno detto che li avrebbero fatti suonare dopo mezzanotte, quindi quando comunque la diretta TV sarebbe staccata. Loro hanno detto in un primo momento va bene, anche sti cazzi della diretta, alla fine c'è la gente, comunque c'è una bella piazza quella del primo maggio, è grande, tanta che gente miseria. Comunque anche visibilità per un gruppo che sì, c'è da tanti anni, però comunque fa sempre piacere suonare davanti a un pubblico vasto. Vabbè, poi solo... non è che stanno troppo alla ricerca della visibilità. No, no, vabbè, però comunque fa piacere, magari è bello, cazzo, per un musicista penso sia comunque sì, bello sì, suonare sì, davanti a un pubblico anche che non sta lì tutto per te, però... E anche per rispetto magari a chi era andato apposta per sentirli, perché magari c'è stava anche chi ha fatto questa cosa senza motivo, senza ironia, senza motivo, la direi questa io cosa la dico, comunque, la dico con ironia. Io adoro gli After Hour, sì sì, si vuole bene. Però in tutto questo poi è successo, gli hanno detto i tecnici che comunque avrebbero abbassato i mixer, cioè i livelli del volume, quindi di fatto avrebbero suonato di merda. Cioè li abbassavano perché c'erano i vicini che se no si... No, sì, perché dopo mezzanotte di fatto il comune non ha più i permessi, cioè non c'era più il permesso di suonare alto, quindi veramente è come se suonavano con una vecchia che gli batteva la scopa e gli diceva ragazzi, basta. Ma veramente, e quindi, sì, cioè, questo è il concerto del primo maggio con 500.000 dopo mezzanotte non ci sono, infatti la diretta stacca solitamente quando finiscono i permessi, quindi mezzanotte 10, dopodiché non c'era più il permesso, quindi avrebbero abbassato di fatto i volumi, avrebbero suonato ma a volumi bassi e con tutto quello che consegue per una piazza così, e quindi hanno deciso di non esibirsi. E Manuel Agnelli che invece da solo si è esibito in acustico, suonavano sì, sì, che poi è buono suonare in acustico in una piazza così enorme, sì, sì, cioè, sì, è sì, una cosa positivissima. E la cosa divertente è che e che appunto non, nel senso non hanno, vaffanculo, non, vabbè, non me ne vale le schermate, no, ma tu ti distrai, dobbiamo interagire, so, con la gente, sì, sì, ma mentre dici una cosa... Gabriele è chiuso perché Gabriele purtroppo non riesce a parlare con le persone, ha difficoltà di comunicazione. Sì, sì, io sono, ho difficoltà sociali e me ne vanto, è per questo che parlo con i miei amici in radio. Anche quello. Però in realtà tu l'hai visto il concerto ieri, è capitato Aridalle, no, ne... Da Gabriele, però era per creare una situazione, ah, sì, come se sì, non sì, ne avessimo sì, già. No, no, potevi anche dire no, però era per fare finta che non ne avessimo già parlato. Si chiama cioè la radio, non è che tu, quelli quando parlano non si sono già parlati. Impara questa cosa e sarà sì, molto sì, bello. Sì. No, ma tu ricordati anche che l'abbiamo detto prima in radio, che l'avevo specificato no. prima. Sì, sì, sì. Hai detto prima sì, in radio? Sì, no, l'avevo sì, detto sì, prima. Ti assicuro di sì. Gabriele, ti assicuro. L'abbiamo già detto, fatecelo sapere su The Educational Channel se abbiamo già parlato di questa cosa. Comunque, Gabriele, tu l'hai visto ieri il concerto? No. Davvero? Io ne ho visto un pezzo ieri sera. E ci sono molte cose che non mi sono piaciute. Non critico il concerto in generale. Anche iniziare dagli After Hour, hanno suonato malissimo. Hanno suonato malissimo, poco e male. Non ho visto tutto il concerto, quindi non mi permetto di criticarlo. Perché comunque non, cioè, la scaletta non mi piaceva, però vabbè, quelle sono gusti. In generale non mi è piaciuto tanto il fatto di... Brasato de mamma ti è piaciuto? Il brasato de mamma non mi è piaciuto per un cazzo, era bruciato. Però mi sembra sempre più una piazza cioè poco politicizzata, quando magari in questo periodo sarebbe carino anche prendersi la libertà di dire qualche cosa in piazza, che magari va anche in diretta nazionale, che poi non va mai in diretta perché va in differita, però modo carino anche per lanciare qualche messaggio. Ieri, per quel poco che ho visto, ripeto, mi è sembrato che ci fosse proprio una carenza di contenuti politici, anche rispetto comunque a un momento di grossa crisi del lavoro. Cioè il primo maggio è la festa del lavoratore, la festa anche del non lavoratore, del precario, quindi... Tant'è che poi il messaggio e il contenuto ce l'hanno messo i lavoratori appunto del sì, concerto del primo maggio, hanno fatto una protesta, sì. No, non tanto la protesta, ma la lettera per dire ok, hanno fatto la lettera, hanno creato lo striscione, l'Italia, la Repubblica fondata sulla strage. perché ovviamente questa è una cosa che è passata molto molto. Siamo in un periodo di grossa crisi, siamo in un periodo in cui si suicidano tanti lavoratori, tanta gente che non riesce più a tenere sui conti, tanta gente che non trova proprio lavoro. Le morti sul lavoro, che comunque sono una costante del nostro paese. Quindi comunque sarebbe stato, ripeto, non so, magari c'è stato quando non l'ho visto sicuramente, però in generale io avrei calcato, sarebbe stato bello vedere i sindacati che si prendessero la libertà di, sarebbe bello vedere i sindacati uniti e prendersi la libertà di usare il 1° maggio anche per dire ok, sia una giornata di festa, perché sia è la festa del lavoratore, però usiamola anche come spazio, come accadeva forse qualche anno fa. Io mi sono posto la domanda con me stesso, che magari ero io che quando ero più piccolo magari la vedevo con occhio più incantato, vedevo forse una piazza più politica, era banalmente che io avevo meno, forse avevo meno spunti per valutarla, però in generale ho la sensazione che negli ultimi anni il valore politico, tranne qualche intervento in tutta la giornata, qualche intervento sporadico e qualche esibizione un po' più significativa, abbia perso molto il valore politico che poteva avere. E in particolare ieri mi ha fatto molto specie, mi ha fatto anche un po' incazzare il fatto di vedere Raiz sul palco, che è il cantante degli Alma Megretta, che recentemente ha firmato una specie di documento insieme a Giuliano Ferrara, che già questo comunque dovrebbe bannarlo a vita da qualsiasi palco minimamente pubblico, politicizzato e minimamente vicino alla sinistra. Ma tanto che si è firmato appunto questo documento con Giuliano Ferrara e con tanti esponenti del PDL e dell'area proprio più di destra del PDL, che appunto complessità in sì più. Sì, no vabbè, ovviamente certo che c'è, però la volevano far passare come appunto Israele vittima incapace di reagire, quando in realtà sappiamo benissimo che non è così. E quindi sinceramente, non tanto gli organizzatori, perché comunque i sindacati non hanno neanche sott'occhio queste dinamiche, perché magari pensano ad altre cose, però dalla piazza mi sarei aspettato qualche reazione in più, e da quello che si è visto dalla diretta televisiva mi è sembrato gente sotto che cantasse, che comunque continuasse a far festa agli Alma Megretta, e quindi avrei voluto magari vedere un po' più di incazzatura verso messaggi del genere, anche perché che non hanno, ovviamente non hanno fatto passare questo messaggio durante l'esibizione, però in generale chi ha questa consapevolezza si dovrebbe incazzare in una piazza che dovrebbe essere teoricamente di sinistra per tutto quello, con le mille virgolette che ci potete mettere, però quello è di fatto. E quindi niente, banalmente ho visto un po' più apolitico uno spazio che avrei voluto vedere più politicizzato, un po' più in grado di comunicare certi contenuti. Invece contenuti che ci sono stati a Torino. Sì, ci sono stati contenuti veramente notevoli. E è stato un corteo che fondamentalmente ha visto la partecipazione più del reparto Celere che non del che PD, però quando stesso. C'è da lavorano, volete 1° maggio, non c'è sta Natale, sì, non c'è sta 1° maggio, sì, non c'è sta Capodanno, quando devono lavorare mi pare vero. No, ma ho visto anche la pagina su Facebook del Movimento Poliziotti, che comunque si lamentavano un po' del fatto che loro anche il 1° maggio dovevano... Sti cacacazzi che si mettono a protestare, e statevene a casa, andate al concerto ne a bere, credo fosse il messaggio. Sì, sì, sì. E insomma niente, il 1° maggio a Torino è stato abbastanza pesante per Fassino, perché si è visto contestare, si è fatto tutto Fassino? Fassino, qualcuno sindaco contesta di Torino. Fassino? Perché tu non lo vedi da un po', però i torinesi ce l'hanno ben presente. Eh già, perché erano in mezzo ai coglioni tutti i giorni. E durante il corteo del durante il corteo, che tra l'altro sta svendendo la CEA, questa sarà un'altra puntata, vabbè, questa ve, sarà ve, più ve la lunga, lanciamo tra e lui dice che non è vero, oltretutto. Sì, sì, vabbè, oggi mi sono sentito tutto il consiglio comunale, quindi guarda, te, perché io non ho una vita, quindi... E quindi dicevi Fassino? E quindi niente, Fassino è stato contestato lungo tutto il tragitto del corteo, tant'è che molta gente è stata veramente sorpresa del fatto che i cordoni di quel corteo l'ha fatti il reparto Celere. Cioè, il reparto Celere ha circondato Fassino per tutto il tragitto, e addirittura la sicurezza del PD, perché esiste, quelli che si occupano della parte d'ordine, del servizio d'ordine, si sono innervositi moltissimo, tanto da cercare di allontanare una telecamera in maniera violenta, il corteo li ha buttati fuori, insomma, ha iniziato a lanciargli i cori contro, dicendo PD, fuori il PD dal corteo, fuori il PD dal corteo. Quindi comunque c'è uno scollamento della politica istituzionale che ormai è talmente tanto palese. Fassino ha fatto un intervento sul palco con la gente girata dall'altra parte, quindi. No, ma la cosa divertente l'ho sentita oggi, se non, o oggi o ieri, non ricordo, è una dichiarazione di Fassino che ha detto che però in realtà chi stava contestando ieri, ovvero le frange più estreme, sono quelli che in realtà non hanno interessi, non stanno vivendo la crisi o comunque non stanno vivendo i problemi reali del paese addosso e sono semplicemente frange estreme che c'erano prima della crisi, ci sono adesso e Sì, ci sì, sì. saranno dopo. Quindi, come a dire, vabbè, quella tanta gente che non conta un cazzo perché tanto stanno sempre a protestare, qualsiasi sia la situazione politica, economica, qualsiasi fazione ci sia al governo, comunque loro. Psicologicamente questa è una non accettazione, No, no, nel no, senso questo è, che di loro questo è ormai dire. vivono la loro Questo è dire realtà. queste persone non esistono, perché tanto esistono sempre con lo stesso scopo, che è quello di protestare, quindi sti cazzi. E infatti questo appunto spiega la loro modalità appunto di non accettazione, di non ascolto mai, soprattutto, cioè non riescono ad ascoltare neanche le critiche interne o comunque che arrivano teoricamente dalla stessa parte. E io gli lancerei quasi Sì. quasi dei Ah, lacrimogeni. pensavo delle luci della centrale elettrica, era una cosa complicata da lanciare. Noi intanto mangiamo. Renaissance came. dopo le luci della centrale elettrica abbiamo mandato i Rage Against the Machine, così c'avevamo il tempo di mangiare, perché non avevamo mangiato, o meglio, Gabriele non aveva mangiato. No, io no. Che ve ne frega il giusto, però tutto fa brodo, no? È anche trasmissione verità questa. È bella perché è il bello della diretta. Perché è bello trasmette da casa. Bello trasmette da casa, comodi. Oh, non abbiamo uno studio, quindi... Quando ce l'abbiamo. Anche perché è l'unica possibilità che c'ha mia madre per sapere se magno, quanto magno. Quindi rassicuriamo, ha mangiato. E non è carino comunque fargli sapere che ho mangiato alle 11. Ha mangiato le polpette. Ma andata pure bene. Beh, insomma, sì, solitamente sei molto più... sì, sì. Hai pranzo tempi molto più dilatati. E niente, noi oggi comunque, come abbiamo detto, questa è stata una settimana un po' atipica, perché non ci siamo preparati bene gli argomenti, anche perché la settimana non ha dato tanti spunti. E poi oggi ci siamo trovati con più argomenti nello stesso giorno, dal malanno che ha colpito Andreotti allo scandalo di Bossi. E queste erano, diciamo, le due cose simpatiche. Nel senso, la terza, o meglio, tra le varie cose, c'è questa che è meno simpatica e che ci ha accompagnato per tutto il giorno. Che tutto il giorno è stata una diretta, sì, dal pomeriggio in poi. A me mi ha accompagnato per tutto il giorno mentre andavo in giro per Roma. Quest'uomo armato, questo imprenditore, poi si è scoperto che è entrato nell'agenzia delle entrate. Nella sede di Equitalia, sì. Nella sede di Equitalia, sì. Sì, mi pare che sì, così la chiamano, diciamo, sì. No, vabbè, agenzia comunque delle entrate. Agenzia delle entrate, sì. E si è barricato questo pomeriggio a Bergamo, mi sembra. Ah, in provincia di Bergamo. In provincia di Bergamo, praticamente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Un altro di quegli imprenditori disperati che piuttosto che suicidarsi ha deciso di fare una cosa diversa. Anche tra l'altro anche oggi si è suicidato un altro imprenditore a Napoli, mi sembra. Sì, in generale questo periodo sta avendo un effetto ulteriore, oltre a... appunto alla crisi economica vera si sta avendo un... questo è proprio il segno della crisi economica vera. Sì, sì, sì, sì, sì. Si parla tanto, certo, di crisi psicologica, questa, beh, frase... questa è la crisi psicologica. Anche la famosa questa frase di Berlusconi, no? La crisi è psicologica, No, in realtà la crisi è questa, c'è gente che non ce la fa più, in effetti, e... pronta a fare comunque gesti quando nel momento in cui sei disperato... Sì, addirittura ho sentito l'altro giorno una cosa che mi ha colpito moltissimo, perché un imprenditore che in Sardegna, a Nuoro se non sbaglio, si è suicidato dopo essere stato costretto a licenziare dalla sua azienda i due figli, che l'immagine comunque tendenzialmente è quella di chi magari ha cercato di costruire qualcosa, per carità, non tutti ci riescono, quindi... Però riuscire a costruire qualcosa magari per mandare avanti i figli, trovandosi costretto a rinnegare questo obiettivo, licenziando proprio i due figli, si è suicidato. Ma al di là di questo, appunto, dobbiamo parlare di questa situazione che si è creata oggi, che è stata tipica, appunto, perché è stato questo imprenditore di 54 anni che si è barricato dentro alla sede dell'Agenzia delle Entrate, facendo all'inizio 16 ostaggi, o 15. Poi li ha liberati tutti tranne uno. E dicendo di voler parlare con i di fatto la sua richiesta era quella di parlare con i giornalisti in primis, di far sapere la sua situazione. Mm-hmm. Poi ci sono state una serie di smentite anche dall'Agenzia delle Entrate, hanno fatto dei controlli dicendo che la sua situazione non era neanche così grave a quanto hanno detto, poi non so se l'hanno detto per tranquillizzare magari l'opinione pubblica, però in generale, ecco, diciamo che la sua non era... Non sì, mi sembra manco strano che abbiano detto... No, appunto, però insomma ci sono state smentite cose. Lui che sostiene che la sua situazione sia invece molto critica, tanto da aver fatto un gesto del genere, insomma con un fucile a pompa si è chiuso dentro all'Agenzia delle Entrate, a questo ufficio, tenendo un solo ostaggio alla fine, che è un impiegato, che tra l'altro si è creata la storia parallela, che poi tra l'altro i giornali hanno molto... i telegiornali si danno molto la cosa, soprattutto Repubblica si è alimentato cercando una sottotrama a una faccenda che di fatto è drammatica per la situazione, già di per sé hanno voluto aggiungere questo pathos di questo impiegato che è riuscito prima a chiamare la sua compagna, poi a mandargli un messaggio con scritto "è finita", in realtà riferendosi alla batteria, cioè "è finita, mi sta guardando", cioè in generale questa situazione, anche per tutto il pomeriggio si è parlato di spari che si sentivano da dentro. In realtà poi alla fine si è risolto tutto con questo imprenditore che si è arreso, diciamo, e si è consegnato alle forze dell'ordine, però è chiara la situazione di disperazione, che è la situazione che ha portato questa persona a voler denunciare in maniera molto forte, cioè chi in passato si è fatto bruciare davanti ai cancelli, cioè di magari di, della fabbrica dove lavorava, quindi per altri motivi ovviamente, però si ha questa sensazione di forti crisi anche dovuta anche, anche vedendo situazioni del genere, molto, situazioni molto forti, molto di impatto, e che fanno riflettere magari noi che guardiamo magari un telegiornale, che leggiamo la cronaca minuto per minuto, e forse fanno riflettere meno chi dovrebbe decidere, perché no, evidentemente decide, sì, riesce ad essere... Monti, l'ultima dichiarazione che ha fatto su suicidi è stata in Grecia, prima di arrivare alla situazione che stanno vivendo. Sono sì, passati 1300 suicidi. Sì, sì, siamo inattivo, siamo ancora, noi siamo a voglia a lavorare. 350. Sì, sì, diciamo, la frase è un po' tipo, sai, a voglia a magna pagnotte, no? Per arrivare a, alla Grecia, che è una cosa clamorosa. Tra l'altro, a questo si ricollega una cosa che diremo dopo. Diremo dopo, però si ricollega anche un concetto espresso da Beppe Grillo, che in generale a me non piace, però sotto quell'aspetto sarebbe interessante analizzare quello che ha detto e come è stato strumentalizzato. È importante analizzare, esatto, come è strumentalizzato la frase di una persona che non è gradita, che in questo momento sempre, esatto. Quindi però ne parleremo dopo. Adesso vogliamo mandare un bacione alla terza mente, che stasera non c'è, facendogli una dedica con una canzone che sicuramente gradirà. Devo alzare? Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et abolit ma rage. Car impossible, cette pétain voulu la rage. Au moins, on a nos CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a-t-on en fait partie? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, mais la rage d'avoir la rage de pécan avant. On allait jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. On allait jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insupportable sans date depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout? Il faut plus tout que la rage, c'est tout ce qui nous laisse. Passons tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où ma pilote s'engraisse pendant ton crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt quand on a la rage, le cœur de la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sages, marginal, humaniste, plus révolté. La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour dans le train sa porte ancêtre. La rage, trop de mensonges et de tout regarder. Évite de nos états riches de vérité pour en charger l'humanité. La rage. Car ils ne veulent pas que ça change, ils veulent regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Pour nous arrêter, insoumis, sages, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. On a la rage, le cœur de la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. stas marginal, humanisme révolté. Anticapitalisme, altermondialisme, et toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Idéalisme spirituel, la stupeur, la stupeur, la mia de la guerre, la guerre. Parce qu'on a la rage, il faut attraper des normes. Parce qu'on a la rage, avec la populace, la rage est énorme. Torniamo in voce, ma allora, stavamo cercando delle... per il nostro amico sì. Enrico Malatesta, per nome lui. E cognome, bacioni. E sì, vabbè, sta bene, però, cioè, spiegate, sbagli ai pupi e ai pupe anche, no? Sì, no, io stavo leggendo. Sta leggendo, beh, bravo, complimenti, mettiti a leggere, faccia... stasera è proprio Radio Cazzi Nostri, cioè ognuno fa quello che comunque vuole. L'abbiamo trovata. Allora, quello che volevamo dire è riguardo alle dichiarazioni appunto di Beppe Grillo, che ha fatto qualche giorno fa. A cui potremmo fare una puntata a parte, ma non è sulla persona. Sì, e non di certo per elogiarlo. Però in questo caso, appunto, parlando del non disinteresse, del disinteresse, anzi, che hanno i politici, che siano essi di partito, siano essi tecnici, rispetto ai problemi del paese, è anche interessante vedere come tentino di strumentalizzare. Ma io credo che sia un disinteresse interessato il loro. Sì, sì, sì, cioè, certo, ovviamente, non è che un disinteresse. Perché se non solo disinteresse sembrerebbero sì, quasi sì, però è per dire invece. Comunque che adesso cercano, come hanno sempre fatto, di demonizzare alcune, non alcune persone, ma in generale alcuni movimenti, dai movimenti di piazza fino a anche cose diverse, se si possono dire tali, come il movimento a 5 Stelle e come Grillo, che può piacere o no, lo ribadisco, a me non piace, però sta... Però allora gli fa tanta paura. Sì, cioè nel senso viene paura. Bollato perché evidentemente sta creando un movimento... probabilmente diverso da tanti partiti che ci sono adesso e da tante dinamiche. Sono semplicemente delle persone che fanno politica, esatto, effettivamente sono persone la realtà, cittadini tecnici né politici da 30 anni, ecco. Che fanno politica, quindi sono al di fuori delle dinamiche che si sono instaurate in questi anni, clientelari o meno che siano, insomma, tutti quei meccanismi che hanno creato lo schifo a cui siamo arrivati. Fatto sta che non riescono più a contenerlo a Grillo, no. Non riescono più a contenere, tant'è il che gli ultimi sondaggi lo danno all'8%. In forte crescita, sì. E quindi arrivano a fare anche queste cose che... Cosa succede? Dobbiamo dire che in generale Grillo come persona, come comico, come artista, chiamatelo come volete, da sempre ha usato... come mezzo di comunicazione l'estremizzazione, il tono molto forte, il dire le cose molto dirette e anche a volte cariche, cercando forse... Vabbè, ma in realtà guarda, io non la spiegherei neanche così. No, però nel senso, comunque va considerato che il punto debole è proprio lì, è lì che lo colpiscono. Sì, perché... però fortunatamente oggi c'è stata una dichiarazione di un altro politico, di Nichi Vendola, che senza premettere né chi è Grillo né chi è Vendola ci fa capire il livello diverso di come vengono trattate le dichiarazioni. Certo. Di queste persone. Vabbè, in generale cosa ha detto Grillo? Grillo, virgolettato, tra l'altro è stato difficilissimo trovare il virgolettato di Grillo, perché ovviamente ogni giornale si è virgolettato quello che gli pareva. Virgolettano quello che hanno capito del virgolettato, che è una cosa giornalistica tremenda, però va bene. Questo anche, vabbè, lo sa, chi ci ascolta sa perfettamente a che livello di informazione siamo. Comunque, il virgolettato vero è di qualche giorno fa: la mafia non ha mai strangolato i suoi clienti, si limita a prendere il pizzo. E ma la spiegazione... qua vediamo un'altra mafia che strangola la sua vittima. Questo è completo. Riferendosi ovviamente alla politica c'è e alla mafia che strangola la sua vittima. Alla politica attuale, alla politica dei costi, dei tagli e la spiegazione che tra l'altro Che si è sollevato da questo un polverone, cioè si è sollevato il casino ovviamente tutti quanti subito ad additare Grillo come una persona pronta a difendere, cioè addirittura io ho letto pezzi nei quali si diceva che Grillo difendeva la mafia, che Grillo in questo modo appunto voleva normalizzare il fenomeno della mafia, demonizzando la politica, quindi di nuovo l'alone di antipolitica, questa antipolitica che si muove, che poi questa cosa è l'antipolitica, non la capisco, perché loro non si definiscono antipolitica, E comunque quello che fanno è politica. L'antipolitica banalmente è quella che non viene pagata da noi, quella che non viene pagata da noi per Ma io fare quella credo che roba è effettivamente antipolitica. l'antipolitica sia poi chi vuole privatizzare l'ACEA nonostante ci sia stato un referendum, ad esempio, quella potrebbe Sì, essere antipolitica antipolitica è nel quella che senso stretto continua a del voler termine. fare un'opera nonostante, come la TAV, nonostante evidentemente il volere popolare, soprattutto di chi vive lì, E anche è l'idiozia del contrario. progetto Ma e l'amianto in nelle generale, montagne. prendiamo anche per buono che Grillo, come personaggio e col suo movimento, voglia fare antipolitica. Però è ovvio che il suo, cioè quello che voleva dire non è che la mafia è buona, la mafia è bella e è meglio avere a che fare con la mafia piuttosto che con i colletti bianchi che ci sono adesso. Però No, la macchina del la fango, sì. dell'informazione si è subito messa in moto perché ovviamente non sapendo Ma più più che come macchina del... No, perché attaccare. la macchina del fango, cioè questa è ancora peggio la macchina, perché la macchina del fango è una cosa fatta ad hoc, questa in realtà è l'informazione, cioè la macchina del Sì, fango è questo è un, un questo è un meccanismo. meccanismo che in realtà si perpetua giorno dopo giorno da TG più di ogni ideologia politica, se questa si può Ecco, dire, ogni comunque di tanto a ogni me piace citare fazione. Saviano, capito? Sì, Che è ecco, anche e uno di quelli già che questa parla di tutto parla di senza più, sì. Tra un saperne. po' ci sarà una puntata. Ah, tra l'altro, ragazzi, voglio vedere, non vedo l'ora di vedere il nuovo programma di Saviano e Fazio che parlerà di nuovo di tutto quello che si può parlare. E in tutto questo, appunto, diciamo che ovviamente l'intento di Grillo con le sue parole, probabilmente molto forti, era un altro, e No, l'ha l'ha spiegato semplicemente lui, l'ha spiegato. spiegato dicendo che. Citiamo quello che ha scritto Grillo: la mafia ha tutto l'interesse a mantenere in vita le sue vittime, le sfrutta, le umilia, le spreme, ma le uccide solo se è necessario per ribadire il suo dominio nel territorio. Senza vittime, senza pizzo e senza una corruzione, come farebbe infatti a prosperare? La finanza internazionale non si fa di questi problemi. Le sue vittime, gli stati, possono deperire e anche morire. Gli imprenditori possono suicidarsi, come in Grecia e in Italia. Spolpato uno stato, si spostano nel successivo. Questo è il senso delle mie parole di ieri a Palermo. E questo si capisce anche da quello di cui abbiamo parlato prima, della Esattamente. dichiarazione di Monti sui 340 suicidi in Italia, mentre in Grecia Sì, sono 1000 e ribadiamo per la passa. 35ª volta, non è per favorire Grillo o per dire l'idea di Grillo, è per dire semplicemente come si cerchi in un momento di crisi di avvalorare le proprie ipotesi sputando merda su chi cerca di fare altre cose. Ed è una cosa che vivono anche i movimenti, perché ogni volta che si va in piazza in maniera più forte, o sì, quando c'è una manifestazione più pacifica, si dimezzano i numeri. Cioè, viene detto che magari in piazza c'erano 30.000 persone quando ce n'erano il triplo, il quadruplo. Vabbè, quello sì, è Sì, la però è modalità la con stessa cui dinamica sì. per movimenti diversi, per persone con intenti diversi, però è la stessa dinamica, voler spalare merda su chi Ma non è questa cosa ce la fa d'accordo. capire ancora di più il fatto, Tanto più in questo la momento di dichiarazione di tecnici. Nichi Vendola. Tant'è, nonostante le cospicue proteste, lui ha detto: fortunatamente la maggior parte dei cittadini di Taranto ci vuole bene. Noi consentiamo persino alle minoranze di vivere questa città, anche ai forestieri che vengono a raccontare una città che non conoscono e che non amano. Cioè, ripeto, noi consentiamo persino alle minoranze di vivere in queste città. Anche ai forestieri che vengono a raccontare una città che, cioè, è una cosa clamorosa, soprattutto detta da un leader della sinistra, perché così, perché ricordiamo che così viene derubricato dai giornali, viene etichettato. Lui è un leader della sinistra, questa sinistra libertaria, questa sinistra che favorisce Più che la libertaria direi TAV. liberale, purtroppo non è libertaria, se No, fosse libertaria libertaria secondo loro no. libertaria, cioè fanno cagare veramente sotto mille Comunque aspetti, questa cosa favoriscono. non l'ha assolutamente, non ne ha parlato nessuno, di sicuro Fiorello non ne ha parlato, non Sì. l'hanno commentata, questa è una cosa che è uscita molto in sordina. Non so dove sta Gabriele. Eh? Cosa? Mandiamo una canzone. Addirittura, va bene, mandiamo una canzone. Ci siamo agitati. No, è perché non ho Nerinte, come ti porterò? Se poi guardo oltre l'attesa, ti sopporterò. Grida amore, la tua scena è pende su di me. Un apostrofo di spine che mi avvolgerà. Non Siamo ritornati in voce. Sì. Erano Idea Sonica. E salutiamo tantissimo Ubaruni, la nostra terza mente che è in chat e ci sta sentendo. Speriamo, forse sia solo in chat a buffo senza sentirci. E, appunto parlavamo del di come questa politica non stia affatto tentando minimamente di venire incontro alle esigenze del paese. Si parla di uno spread che diminuisce a cannone, poi aumenta, poi ridiminuisce, ma di fatto la situazione reale è ben diversa e ben più drammatica, e si continuano a chiedere sacrifici. Oltretutto si iniziano anche ad avere dei dubbi sulle reali capacità, cioè c'è chi li ha avuti da sempre i dubbi sulle capacità di questi tecnici, però adesso stanno venendo meno dei capitali. Ad esempio è stato chiamato un nuovo super tecnico, questo adesso ormai poi mediaticamente gli danno degli attributi fantastici, questo è il nuovo super tecnico, cioè quelli erano super tecnici, quindi questo è super tecnico, no, perché aiuta i super tecnici. Tecnici. Lui è il super se lui dovesse chiamare un altro tecnico sarebbe il super mega galattico. Sì, tipo Fantozzi con i direttori, il super mega direttore naturale genetico. E appunto Enrico Bondi che dovrà occuparsi di fare cosa? Di tagliare le spese pubbliche che finora di fatto non sono state tagliate. Se ne doveva occupare il ministro Giarda, che evidentemente non ci è riuscito, non ha trovato. No, una cosa interessante è che sentendo la Zanzara su Radio 24, Bocchino l'altro giorno, prima che uscisse fuori Bondi, ha detto pubblicamente, si possono anche trovare registrazioni, che Giarda non è in grado di fare i tagli alla spesa pubblica e sarebbe il caso che Monti chiamasse qualcun altro. E poi dopo qualche giorno di fatto ha chiamato questo Bondi, che non è il Bondi, non è il poeta del PDL che fa le fantastiche poesie dedicate a Ferrari e a Berlusconi, ma è un altro Bondi che ha lavorato anche per la Parmalat dopo il crack, se non sbaglio, è riuscito a ritirarla su e a risollevarla dopo quel crack abnorme che ha visto protagonisti in negativo migliaia di risparmiatori in Italia frodati da Tanzi, che tra l'altro Tanzi ha chiesto scusa qualche giorno fa, cioè si è reso conto che forse ha fatto, cioè, scusate ragazzi, forse ho fatto una stronzata. Beh, dopo c'ha tanti anni, suo, dopo essersi messo da parte i quadri di valore dicendo di essere ormai nulla tenente, cioè cose fantastiche, si è ricordato di chiedere scusa a tutta la gente che ha frodato e che ha mandato a zampe all'aria. Fatto questo piccolo inciso, appunto Bondi che cosa deve fare? Il suo compito sarà quello di tagliare le spese pubbliche, quindi i comuni, i ministeri, sì, ancora, che in realtà non l'hanno mai fatto. Però, oddio, non sembrerebbe. No, però spese pubbliche, i sprechi pubblici, è quello che deve tagliare, lui dovrebbe tagliare gli come, sprechi. Ma ci hanno detto che hanno fatto la riforma scolastica, la riforma universitaria, proprio per quello eliminare tutti gli sprechi, fatto, per eliminare i baronaggi. Sì, beh, quella era un'altra cosa. Questi, perché adesso non hai capito, i baroni adesso sono andati al governo. È questo, capisci, che ti sei perso. Infatti è quello. Cioè, questa cosa è fantastica. Ti è mancato questo procedimento. Effettivamente la Gelmini li ha levato i baroni dall'università, perché sono e li ha messi al governo, infatti, dalla Bocconi. A Bocchino, sì, che li ha denunciati, vedi, torna, sì, tutto. Sì, sì. No, comunque adesso si parla di tagli, di nuovi tagli alla scuola pubblica. Tra l'altro è da sottolineare che lui non potrà tagliare Camere e Senato, perché Camera e Senato non sono organi statali ma sono organi costituzionali, quindi lui comunque non potrà proporre tagli che riguardino Camera e Senato, ma tagli che riguarderanno i ministeri e il modo di spendere, appunto, i ministeri. Come lo farà? Come farà? Lui ha pochi giorni a disposizione per varare, insomma, per dare un progetto di taglio alle spese pubbliche, agli sprechi. Ha e creato una genialata. Ce lo sta chiedendo a noi. Praticamente, siccome lo sono super tecnici, e fermate quanto sono tecnici, allora che fanno? Fanno un form su internet con il quale tu praticamente vai lì e dici: io vorrei segnalare. Quindi lui è un tecnico perché ne sa di HTML. Ha sì, creato sì, è un tecnico informatico lui, cioè loro pensavano chissà che cosa fosse, lui è un tecnico informatico, ha creato un form su internet in cui tu dici qui c'è uno spreco, cioè qui c'è sta, dici dove sono gli guarda, sprechi, ti dico, c'è sta al comune di Fiano Romano, c'è sta uno che dorme da mattina alla sera, lo vedo là dietro, lascia la corrente accesa, non spengo una sera le luci, e questo comunque fa un cazzo da mattina alla sera, quindi fammelo lavorare a mezza giornata, oppure meglio ancora licenziamolo perché è uno spreco. e va che te sei salvato qui 600 euro al mese che comunque io comunque non c'ho parole, veramente. E questa è una cosa bellissima, perché noi abbiamo appunto chiamato questi geni a chiamato poi noi abbiamo noi chi abbiamo non sotto silenzio, ma insomma è stata oscurata dalla presenza appunto di Bondi nel governo. E che adesso c'è anche un altro super tecnico che è Amato. Ah, qui Giuliano Amato là, e questa è una cosa lui, bellissima. Comunque gente che risponde. Sì, no, comunque tra un po' chiamano Andreotti se si ripiglia in tempo. No, Andreotti, infatti, occhio che io lo dico da tempo. Che proprio non è tecnico, lui è politico. Andreotti c'ha tutto in mano. Andreotti tornerà alla grande e lo voteremo tutti. Vedrete che andrà a finire così per il disgusto generale. Sto per vomitare. E tolto questo, comunque, appunto, se potete segnalate sprechi, cioè, nel senso, usate troppa carta igienica, usatene di meno, perché sennò arriva qualcuno che vi denuncia che se usa troppa carta igienica e Bondi ve se beve. E passiamo una canzone? Assolutamente, ce l'ho pronta prontissima. Ottima, la fera dell'est. La fera, la fera, la fera. Siamo pronti, noi qua ci abbiamo veramente. Quanto siamo pronti? Ma siamo pronti per essere pronti. Radiofonia tanto pronti che adesso siamo tanto bravi da parlare sull'intro e poi fare entrare la canzone proprio tra 3, 2, 1. Alla fiera del tufello Berlusconi, er posata la madre scippò e venne a catena che col corpo patata che Berlusconi la madre scippò. Alla fiera del tufello fiera del tufello tu scudi er patata la madre scippò e venne ermonnezza che ha dato due botte al cipolla che gli è partito ar catena che corco ar patata che tu scudi la madre scippò alla fiera del tufello tu scudi er patata la madre scippò e venne er tramontata che ha dato due botte al cipolla che gli è partito al catena che corcor patata che pe tu scudi la madre scippò alla fiera del tufello pe tu scudi per patata la madre scippò e venne er caccola che con du crocche ha sdraiato er tramontana che però c'aveva l'amici che so venuti hanno fatto un a caccola che ci aveva il cognato che era un fame perso è venuto col canne mozze ha tirato sul monnezza che con muco su una gamba ha cominciato a di anfamoni lasciatemi sciolto a questo apro un due come una corsa ma è arrivata la banda del coreano erano tutti incazzati se son gonfiati se son sparati se son bombardati una gamboggia. Alla fiera del tufello per tu scudi, per patata, la madre scippò. Er patata, se lo conosci lo eviti. Ma Cambogia, esattamente quello che sta succedendo adesso. Salutiamo il nostro Ubaruni che continua a vessarci in chat adducendo anche spiegazioni regionali che noi non appoggiamo affatto e non condividiamo, tanto che proprio per te Ubaroni, detto anche Enrico, abbiamo deciso di dirtelo, cioè volevamo dirtelo di persona, però visto che hai tirato in ballo il discorso, vabbè, sarà... cioè siamo finiti tutta l'anduia. Sì. Tutta, abbiamo finito e abbiamo deciso niente, che che siamo meglio in due, quindi non sarà più tre menti sopra abbiamo il clero, fatto passerò... coming out ah sì? su transizione di fase stiamo questo è il nostro trio diventerà una coppia, il nostro trio diventerà una coppia e non si chiamerà più tre menti sopra il clero perché non ha senso, anche perché era diventato difficile fare sesso comunque tutte sì volte sì po'... c'era sempre lui che poi aveva questo super ego, diceva sono più bravo degli altri, cioè queste cose sue che non che non ci piacciono. Ma stai proiettando? Sì sì, sono io che sono proiettando. Sì sì. Ma cosa mi hai chiesto? Un tappeto o la musica o una canzone? Io ti avevo chiesto proprio un tappeto per terra. Perché è pieno, pieno. Guarda, ce n'è uno nello sgabuzzino. Vallo a prendere. Vado. Allora, mettiamo un tappeto per parlare. Cioè, il tappeto teoricamente servirebbe per parlarci sopra, però non abbiamo più argomenti. Quindi adesso sarà completamente il gioco della vanvera. E parleremo completamente a vanvera. E di chi è la papagna? E di chi è la papagna soprattutto, e quindi è molto bello. Non ci è rimasto niente. E va bene, quindi non vogliamo salutarvi perché mi pare presto per salutarvi. Vi possiamo dire. Insomma, abbiamo fatto la nostra onesta ora e 40, eh. E potremmo anche accannarvi, però siccome siamo molto bravi, siccome abbiamo messo solamente le canzoni che voleva Gabriele, e quindi a me mi dà molto al cazzo. Volevo mettere una canzone di Apparat. No, ti attacchi. No. Però di cosa potremmo. Ah, per esempio, questa settimana si è stabilito il record del water più veloce del mondo. 75 km/h, una donna seduta su un water, una pilota presumo, seduta su un water e riuscita. Una pilota, sì. Anch'io sono un po' pilota quando mi sveglio la mattina e vado al bagno. Sì, però non la fai a 75 km/h. Beh, fai è sempre comunque a un 0 po' tab, km/h. È un po' tab. Esattamente, quindi dalla tab in quanto alta velocità c'è anche l'alta velocità dei treni. Dei treni e dei gabinetti. Sì, perché io con la chat davanti posso trasmettere, veramente. Lo so. Apparat è un gran comunque problema. Mi hai convinto, Enrico, mi hai convinto. E quindi metteremo Apparat, no, così giusto per averlo sulla coscienza. È una questione di sensibilità. Ah, un'altra cosa che volevo dire, vedi che io parlando con te mi scordo le cose. E infatti devo smettere perché di parlare. Sono molto bello. Sono molto becero. Però mi scordo di parlare di cose che. Anche. No, non di parlare, ma di accennare cose che. Ti di cui voglio saper parlare. Perché evidentemente hai dei problemi di dizione. Soprattutto. Non di dizione. Però potresti anche però vedermi in difficoltà che sto cercando le cose e parlare un po' tu. Assolutamente. Intanto sì. Io cerco. Però allora, non lo fai io oggi, mai. Oggi sono andato dal meccanico. Che ti ha detto? Ah, vedi, quindi anche. Vedi? Sì, sì. Io parlo con i lavoratori. Bravissimo, è quello che ti volevo dire, bravissimo. Ormai te capisco, questa cosa mi preoccupa tantissimo. La piattaforma, la famosa piattaforma, no, con è stato lavoratori. Gentilissimo, ma mi ha regalato un pezzo che gli avanzava. Ma lei ci sta a provare? Del motorino. No, vabbè, mo non è che devi essere geloso per forza, comunque. No, non è geloso. Cioè, tutte le volte che ti racconto qualcosa mi blocchi, non ti riesco mai a dire niente perché tutta questa gelosia perché che c'hai. Senti, c'hai ragione. No, mi ha regalato una cosa che effettivamente mo non saprei dire che cos'è. Comunque è un cavo che. Un nulla. Ma comunque è stato molto gentile. E anzi che non mi ha frodato come tutti i meccanici che di solito mi frodano. Questo lo dici tu perché il tuo motorino già funzionava. Comunque non posso parlare della no, mia vita. No, continua. Io sto continuando a cercare. Ah, eccola qua, infatti questo cercavo. Finisci per la del meccanico però, cioè. Sì. No, è stato molto carino. Il fatto che non mi abbia frodato ha fatto sì che diventasse il mio meccanico di fiducia. Nonostante non sappia neanche come si chiami, però sono contento. Vabbè, questa bellissima storia sì, di vita sì. Vissuta è importantissima. E io volevo semplicemente fare un flash veloce dicendo che sono arrivati a 46, di cui 42 già firmati e 4 in attesa. I DASP emessi dalla questura di Genoa agli ultra genoani che due domenica fa causarono la sospensione della partita col Siena. Quindi sono 46 le persone che non potranno più mettere per parecchio tempo piede dentro allo stadio di Marassi di Genova per qualsiasi e dovranno firmare ogni volta che a Genova ci sarà un evento sportivo di qualsiasi tipo, dalla pallanuoto alla pallavolo al qualsiasi evento sportivo appunto al biliardo professionistico per i fatti che anche questi demonizzati per altri motivi. Ah, questa è una cosa che poi si ricollega col discorso precedente sull'informazione. Sì, demonizzare. Il fatto che nel momento in cui l'informazione mediatica, quindi televisioni, giornali mainstream, hanno deciso che quello che è successo a Genova è un fatto da condannare e carità, magari sarà anche da condannare, cioè lo posso anche capire la condanna, ma quello l'hanno fatto diventare come se i tifosi fossero entrati in campo e avessero sparato là, cioè la sensazione di come ne parla è di una tragedia, quando in realtà non c'è stato, almeno dentro in quella situazione non ci sono stati scontri di nessun tipo, non ci sono stati feriti, ci sono stati solo fumogeni accesi, fumogeni, non si parla di bombe, e tifosi che hanno protestato contro la propria squadra cercando di far rispettare i colori che amano. Questo quindi può non essere compreso da tante persone, e lo capisco che tante persone possono non comprendere questo attaccamento alla maglia, però in generale, ecco, 46 persone per una cosa del genere non potranno più accedere allo stadio per un lunghissimo periodo, non potranno mai fare, se continuerà ad esistere, e spero di no, la tessera del tifoso, non l'avrebbero fatta comunque, ma a prescindere, esatto, non la potranno fare. E comunque questo per la serie, se vuoi protestare devi protestare senza farti sentire, esatto, questo se vuoi protesta questo su internet, può essere perché allo adesso stadio, può essere in piazza, può essere nelle strade, la cosa fantastica, firma i tuoi appelli su internet, esatto, rimani con un click, casa. Okay. E per tra poco faranno per form, ora, sì, un form anche per quello, sì, segnala le proteste via internet, sì. Ci saranno anche dici perché ti sì lamenti. Ma guarda che ci sarà, stavo ne leggendo, prenderemo sicuramente, stavo altro leggendo che ci sarà anche tra un po' un servizio di Celery Express, cioè loro ti vengono a picchiare direttamente a casa senza che tu perfetto ti stanchi ad andare fuori in piazza, tu aspetti a casa, magari dici che ne so, Monti Stronzo, monti bestia sul cazzo, lo scrivi su Facebook, tempo, un'oretta che ti identificano, ti denuncia la polizia postale, ti arriva la cera direttamente a casa a due carci in culo, due manganellate e stai a posto. Se ti portano dentro vuol dire che hai scritto qualcosa di troppo grave, tipo Andreotti magari muore. Se invece hai detto una cosa un po' più leggera, tipo Monti Stronzo, quindi una contestazione leggera, allora solo un paio di manganellate. E vabbè, ci teniamo appunto a dire questa cosa del Daspo. Poi oltretutto, ricollegandola, tutti avrete visto i fatti, senza voler parlare di calcio, perché questa non è una trasmissione che parla di calcio, però i fatti di ieri di un allenatore che ha picchiato un giocatore, tanti hanno sollevato, senza entrare nel merito perché chi se ne frega, non è questo il momento, però ad esempio quello è un atto di violenza all'interno di uno stadio, e tanti hanno sollevato, e alcuni hanno sollevato la questione di dire, allora perché quello, essendo un tesserato che compie un gesto violento, giustificato o meno che possa essere, perché non viene daspato? Qualche anno fa si sollevò la stessa questione quando in finale di Coppa Italia, se non sbaglio, il giocatore dell'Inter, Chivu, lanciò una bottiglietta piena verso la tribuna della Roma. Quello è un atto di violenza. Il fatto che l'abbia fatto un tesserato di una squadra non vuol dire che non sia un atto di violenza all'interno dello stadio. Perché quello non viene daspato? Poi io non voglio daspato a nessuno, non voglio che siano daspati neanche i tifosi. Il daspo mi fa schifo, però è per dire come alla fine sistema malato, come alla fine a due pesi due misure, perché quello tanto l'ha fatto un calciatore, ho capito, ma quello è un atto di violenza e non è un atto di violenza all'interno del terreno di gioco. Vabbè, è un atto di violenza Sky che esattamente deve nel quindi è per dire che anche questo è tutto nell'ottica di va bene tutto finché nei nostri recinti, che sia dall'ambito politico all'ambito del tifo, all'ambito di partiti diversi che si possono, o movimenti diversi, qualsiasi cosa che non sia nel recinto del tipo di politica che vogliono fare in questo momento non va bene, e quindi ci dovremo accollare di vedere, a meno che non succeda qualcosa, ci accolleremo di vedere per tanti altri anni la stessa gente che c'è stata per 20 anni, gente che ha fatto appunto politica negli ultimi 20 anni facendo schifo. E tra l'altro una piccola cosa, io poi mi smetto di fare questo pippone, però veramente questa viene dal cuore. L'altro giorno sentivo, ho visto per 10 minuti, 8 e mezzo, il programma della Gruber, c'era Della Vedova, che è il senatore del FLI, credo, se non sbaglio, vabbè, quella, il nuovo partito di Fini, che sosteneva che stavano discutendo l'affermazione di Monti per la quale l'IMU in questo momento c'è perché a suo tempo fu abolita l'ICI senza motivo. Ricordiamo tutti la grande campagna elettorale fatta da Berlusconi appunto sul taglio all'ICI, che tagliò l'ICI sulla prima casa. E c'era a contestare questo provvedimento, e quindi a dar man forte a Monti, c'era Della Vedova. Pochi ricordano che Della Vedova era tra i firmatari dell'abolizione dell'ICI, perché faceva parte, perché ancora non si era distaccata FLI, e ancora faceva parte del governo Berlusconi. Quindi la cosa che bisognerebbe fare forse è un po' di di riacquisizione di memoria storica e ricordarsi chi stava con chi secondo determinati momenti, perché, e poi lui infatti si è salvato in calcio d'angolo dicendo che della vedova, dicendo che lui l'ha firmata perché era convinto che avrebbero trovato altri metodi che non fossero lici per far rientrare quei soldi. Cioè lui veramente ha firmato una legge sperando che succedesse qualcosa che facesse entrare i soldi dell'ICI. Anziché l'ha letta. No, ma neanche l'ha letta, perché evidentemente non l'ha letta, perché ci sono degli ammortizzatori precisi per sostenere le spese che erano di una tassa. Quindi cioè, la cosa assurda è che si rimpasseranno per la 300ª volta le stesse persone con partiti nuovi, dall'Italia dei Maroni alla Padania, al partito della Lega. Sì, al partito famosena Lega. E quindi ci avremo sempre le stesse persone, a meno che non succeda qualcosa, perché fuori dal loro recinto non si può entrare. Adesso mi sto sentendo molto compagno anni 90, sì, no, quindi a canno. Sei diventato un po' beppe. E quindi però mettiamo una canzone bellissima, fantastica, stupenda, e che ci piace, vediamo. Che ci piace tantissimo. Mega carcazzo, metti questa, dai. Ecco, ce l'abbiamo. No, no, mi sei sul cazzo. Ah, no, scusa, hai ragione, non allora, del cantautore che non si batte. E questa il è una cantautore canzone che non si batte. Come diceva? Beh, c'ha gli occhi al cielo. Io questo momento vorrei descrivere un compositore che non si può battere, un conduttore che ha gli occhi al cielo mentre deve provare a trovare gli aggettivi. La Sala Rosa di Antonello Venditti. Me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna di questa terra che non m'aiuta mai, di questa gente che te sputa in faccia, che non ha mai preso che si distingue per una cravatta. Me ne voglio andare da sto paese marcio che c'ha i buchi al posto del cervello, che va a mangiare sull'ossa di chi soffre, che pensa solo al posto che può perdere. C'avemo forza e voglia più di tutti, andiamo là dove ci stanno i morti, anche se siamo due ossa dei prosciutti, ci vederà chi c'ha gli occhioni sani, che ci dirà venite giù all'inferno, almeno ci avrete il fuoco per l'inverno. Se c'hai un cuore tu me puoi capire, se c'hai un amore tu me puoi seguire. Che te dico, io mo me butto al fiume, così finisco de campa sta vita, che a poco m'ha succato occhi. che so sante. Caro Antani, guarda, ormai cioè, ci abbiamo fatto proprio... Ci abbiamo fatto... Cioè, partita la musica, sì, ormai veramente abbiamo... fanno il book, quindi... A me hanno una volta, l'ultima volta, mi hanno fatto pure i primi piani proprio, sai, quelli secchi, sì. Comunque... Destra e sinistra... Sì, sì, destra e sinistra, ci faccio il profilo, ci faccio il profilo. Comunque io volevo dire che vorrei molto fare l'amore con la mamma di Enrico. Ritorniamo al concetto di l'amore. Sì, sì, sì, sì. Per il tatuaggio che vuole farsi. Per, sì, perché poi noi interagiamo con la chat, ma non pensiamo che qualcuno ascolterà il podcast e non ci sarà e non capirà il riferimento. Il riferimento è perché il nostro amico Enrico, la terza mente, ma sta sì, autoreferenziali, autoreferenziali a stecca. Sì, ma non autoreferenziali con noi, autoreferenziali proprio con la chat. Quindi chi sentirà il podcast non ci capirà un cazzo e non ci ascolterà mai più. Quindi noi andiamo a perdere. Ed è quella a cui puntiamo. Sì, vogliamo. Che noi facciamo le cose al contrario, noi puntiamo agli zero. Sì, perché siamo partiti da 8 milioni di ascoltatori, siamo poi esatto. La prima puntata eravamo subito calati a 3. Eravamo 8 milioni e siamo calati a 3 alla seconda, quindi probabilmente ci siamo riusciti. In tutto questo Sandrone intanto è partita in una serie di epitodi contro mia madre, epitodi, non so perché, soprattutto epitodi. Ricordiamo a Sandrone presa male Sandrone. Ma anche a tua mamma, un po' anche Clara vorrei. Sì, adesso sta partendo però adesso delle offese alla mamma che sono degne della terza media, neanche troppo superata. L'ha già data io. Sì, okay. Sì, sì. Vabbè, io non voglio neanche leggere e mi scuso con quelli che ascolteranno il podcast che non capiranno un cazzo. Volevo ricordare a Sandrona che quando scrive oddio, deve scrivere oddio, oddio, perché non è vocativo oddio, cioè non è una vocazione. I detto fastidi questo. Di Luca Bertolucci. Ma adesso nome e cognome. Eh sì, sei un regista famoso. Ah, grandissimo. Tra l'altro c'era la mia professoressa di filosofia. Che ti ha confuso per un regista famoso. Cannone, ogni volta mi chiamava Bertolucci, vieni interrogato. E io continuavo a non andare perché dicevo, non sono io, quindi se ne vado a fanculo. Beh, io direi che mi sono anche abbastanza rotto il cazzo. È stato un piacere, ci vediamo giovedì prossimo. No, alle 22. Non chiudiamola così, chiudiamola in maniera migliore. Ciao. Vi vogliamo bene e comunque ragazzi abbiamo retto da paura senza argomenti, senza una mente, la migliore tra l'altro, cioè senza la mente migliore. È per quello che le frasi non venivano chiuse tutte le volte, perché mancava la chiusa de... E Antani fa lo spocchioso o la spocchiosa in chat dicendo... Che mia madre de bocca è ancora più brava, ah, vedi. E tra l'altro diciamo a Ubaroni che probabilmente non è un problema tuo, ma probabilmente il problema è della connessione nostra che salta. E però la prossima puntata avremo una connessione molto migliore, eh? Sì, sì, andiamo alla biblioteca qua a fianco. Sì. Occuperemo forse un kebabaro per la trasmissione. Sì, se poi uso l'italiano. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, è stato un piacere stare in vostra cari compagnia, amici. Speriamo che sia stato lo stesso anche per voi. Che Dio vi ci raccomandiamo prossima postato. Settimana, perché sto un attimo allungato sulla scrivania. Ci sentiamo. Dillo così, sta allungato sulla scrivania, sapete, in desabie. Ci stiamo a preparare per dopo. Mamma, non vedo l'ora. A proposito, dopo che state a fa? In chat ci scrivete dopo che state a fa, grazie. A giovedì prossimo. Ciao belli e belle e bellu. Nel frattempo cerchiamo qualcosa che ancora sì, non abbiamo messo. Sì, stiamo a cercare canzoni perché... Perché le canzoni qua finiscono con 10 secondi. Sì, tra l'altro anticipo. Oggi abbiamo avuto penso mezza canzone. E abbiamo avuto proprio mezza canzone, sì, nella tua testa e continuava a suonare. Sono soltanto parole per me che la distanza ora complica. Io vorrei tanto capirne di più, vorrei che non pensassi a male. Che perso nel sonno più chiuso che c'è, lascio soltanto un'impronta nell'aria. Altro respiro d'amaro per noi, ci resta solo il disegno del tempo. Makes them more than friends. Time it's true love, more than just pretend. Makes you count the nights and the moments we're apart. Time will heal your troubles when you've got the blues. Heal a burning heartache, put you right back in the groove. But time will take its toll on you if you don't play it smart. Because time makes two, it takes two to heal a broken heart. This pain, and I'm so proud of you, love. So proud to be a man. Time makes two. Thank you. love I'm seeking in. So I take a taste of what's love. Come away with something better. What I want is what I've not got. But what I need is all around me. So I reach and search and never stop. But I say, I'm waiting to keep them sweating. Senza petrolio è come se finisse il vino a mio nonno. Noi senza petrolio, l'Italia è in crisi, ma la crisi è questo imbroglio. La situazione non va, non va, non va. Guerra è troppa poca civiltà. Non va, non va. Va bene, vengo a prenderti amore mio, ma sono al chilometro 40 e 30 me ne mancano a te, ma dove vado io? Senza petrolio è come se finisse alla mia nonna l'aglio. Noi senza petrolio il mondo tace, ho le cuffie e non lo sento. La situazione non va, non va, non va. Calcoliamo smoke a quantità. Non va, non va. Cosa accadrà nell'anno 2056, quando il petrolio sarà finito? Non potrei raggiungerti, accelerare ai semafori. Amore mio, rinnovami. Senza petrolio è come se mi si fermasse l'orologio. Noi senza petrolio, Italia sterile, regalaci un elogio. La situazione non va, non va, non va. Guerra è troppa poca civiltà, perché non va. Situazione critica, trasformo in lirica Italia in ginocchio, conferma Pinocchio. Scarabocchio, un governo che firma, zero certezze, non trovo la rima, conferma. Messaggio odierno, manca il petrolio, gli alimenti nel gasolio. Solidari con gli autotrasportatori, non sono l'ultima ruota del carro, ma dimmi qual è sto carro. Senza petrolio, potrei pensare al mio futuro con un figlio. Parlare del nonno, del suo carretto e del suo bicchiere di vino. La situazione non va, non va, non va. Guerra è troppa poca civiltà. Non va, non va. Noi senza petrolio è come se finisse alla mia nonna l'aglio. Noi senza petrolio il mondo è in crisi e mi sa che me lo squaglio. Noi senza petrolio. Thank you. buona parte era italiano. Qualche diritto lo abbiamo. Dai, facciamolo davvero. Un gesto gratuito ma fiero. Giocheremo sul relax vacanziero. Approfittiamo dello sbacco salottiero. Sarà una mitica impresa. Per la sorpresa non avranno più difesa. Se perdiamo chiederemo perdono. Usciremo col prossimo condono. Riprendiamoci la Corsica. Riprendiamoci la Corsica. Sarà più bella la vita. Serve solo un poco di coraggio per rimediare un passaggio. O forse un biglietto omaggio per salire sul traghetto. Riprendiamoci la Corsica. Riprendiamoci la Corsica. Riprendiamoci la Corsica. Aspettano, magari se ne fregano. Attaccheremo dai porti, stabiliremo nuovi corsi. Ma se tu non vuoi esporti, forse meglio che non parti. Riprendiamoci la Corsica. Riprendiamoci la Corsica. Riprendiamoci la Corsica. Riprendiamoci la Corsica. Se va male proveremo con la Svizzera. All'improvviso si sogge un bel sorriso. È solo col buon viso che si può giocare duro. È la scelta del prodotto, qualcosa che sia ghiotto, gustoso, conveniente ma ridotto. Terzo, si studia l'etichetta, si stacca la linguetta, possibilmente fatta in tutta fretta. Quarto, si fa un respiro forte, si passa tra le porte. Solamente allora potrai dire funziona. Non suona. Sottovalutando ciò che mi potrebbe capitare. Girala intorno agli scaffali, ricordi di regali, offrire in occasioni un po' speciali. Forse per l'eccessiva fretta non vado all'etichetta, conseguentemente alla linguetta. Quindi ripasso tra le porte, respiro meno forte, ma sento che qualcosa non funziona. Suona! Che pacco! Le mani! Sacco! finta di niente, mi scappi dalla gente, partirei per la gita al Sacromonte. Tu e tu busca la cinzetta, ma in mezzo alla borsetta di quel che ignaramabile vecchietta. Terzo, la cosa più istintiva in quella refurtiva, frana di gestione un po' tardiva. Quarto, reagisci con ardore, si rischia un po' di cuore, ma resta sempre il metodo migliore. Scappa! Di cosa? Più avanti si sosta.